io credo che intellettuali, politici, assessori, operatori, più che gli operatori, insomma, quelli che gestiscono soldi e apparentemente gestiscono idee, dovrebbero fare lo sforzo probabilmente più che farsi venire in mente delle cose, di uscire dalla propria stanza e andare a vedere quello che già succede in questo paese. Io organizzavo piccolo festival, un festival nella periferia di Roma, frequentatissimo da migliaia di persone. L'assessore alla cultura ha deciso bene di chiudere questo festival, come tante altre realtà, e di investire in cose tipo questa boiata della notte futurista o cose o similari, insomma. Per cui, a parte il futurismo o roba del genere, io penso che avrebbe dovuto fare la fatica di andare a vedere quello che già succedeva nella città, insomma, piuttosto che restarsene chiuso nel suo ufficio e inventarsi delle cose nuove. Per cui dico, in Italia tante cose già succedono, bisognerebbe fare semplicemente lo sforzo di sostenerle senza, diciamo, presentarsi come il genio del momento che ha l'idea risolutrice.